America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. All the gentlemen and selling at $34,250,000. Il banditore ha battuto a $34 million l'autoritratto di Andy Warhol, uno degli autoritratti di cui parlai l'altro giorno quando vi ho raccontato di questa tempestosa stagione delle aste a New York. Di fatto si è chiusa con questa vendita che ha colto di sorpresa il mercato. Il prezzo è stato molto più elevato di quel che ci si aspettava. Vorrei descrivervi questa opera di Andy Warhol. Intanto è del 63-64, ha uno sfondo blu, sono quattro ritratti. Immaginate le foto che si prendono in quei piccoli gabbiotti dove mettete un euro e vi fa quattro foto in pose diverse. Ecco, è esattamente la stessa struttura. Quattro foto in pose diverse prese da uno di questi gabbiotti. Warhol le ha rielaborate, le ha ingrandite, gli ha fatto degli sfondi blu diversi per ognuna di queste foto e ha ottenuto un quadro che ha stabilito il record per i suoi autoritratti. Un'asta tra l'altro rapidissima, il prezzo di partenza è stato $14 million, in un minuto si è arrivati a $18 million, due i concorrenti, alla fine $34 million, ma il prezzo vero sarà $38,4 million. Includendo tasse e commissioni. Ma oggi vorrei parlarvi, restando nell'arte, ma passando dall'arte figurativa a quella letteraria, di libri, di publishers, di editoria americana, e lo facciamo in omaggio al Salone del Libro che si tiene a Torino proprio in questi giorni. There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life, full of loneliness and misery and suffering and unhappiness, and it's all over much too quickly. Beh, comincio intanto per intrattenere coloro che si trovano al Salone del Libro e coloro che sono comunque generalmente interessati al mercato dei libri con Woody Allen. Avete sentito la voce del grande attore regista americano? Ebbene, qualche giorno fa, in una intervista che voleva pubblicizzare il suo nuovo film che uscirà a Cannes, Midnight in Paris, Woody Allen ha raccontato quali sono i suoi libri preferiti. Parte con Il giovane Holden, Catcher in the Rye di J.D. Salinger, beh, ovviamente è un classico americano. Al secondo posto mette Really the Blues, che è un'autobiografia del musicista jazz Mads Mesrow. Poi Il mondo di S.J. Perlman, di appunto S.J. Perlman. Quarto posto, Memoria dell'aldilà di Machado de Assis. E infine, al quinto posto, la biografia di Elia Kazan scritta da Richard Schickel. Dunque i libri sono fondamentali, sono essenziali, servono a formare grandi artisti, servono a rasserenarci lo spirito. Insomma, i libri restano una costante essenziale per il nostro equilibrio spirituale. Henry Kissinger's book on China is very interesting. Presents Kissinger's take on how China sees the world diplomatically. Dalle preferenze di Woody Allen alle raccomandazioni di Andrew Wiley, il più grande agente letterario del mondo e un agente molto particolare perché è riuscito a imporsi sul mercato presentando con straordinaria forza gli interessi dei suoi clienti, degli autori dunque, e imponendo alle case editrici di pagare degli advance, degli anticipi da favola. The Nobel Prize winning economist Michael Spence, who is writing about the future of economic growth in a book called The Next Convergence. And we have a brilliant young neurologist, David Eagleman, writing about this, what he calls the secret lives of the brain in a book called Incognito. And Siddhartha Mukherjee, who won the Pulitzer for The Emperor of All Maladies, which is a biography of cancer. quali saranno i libri hot, i libri caldi da qui ai prossimi mesi e che dunque possono essere venduti bene a livello internazionale. Innanzitutto il nuovo libro di Kissinger sulla Cina. In questo libro Kissinger così dà uno spaccato della Cina in termini diplomatici e spiega un po' come la Cina arriva alle sue opinioni e ai suoi approcci attraverso un'analisi diplomatica, quindi molto molto interessante. Poi raccomanda il libro del Nobel per l'economia Michael Spence, che è un libro sul futuro della crescita economica. Sappiamo tutti di essere in una crisi piuttosto complessa, non si riesce a creare occupazione in America, i modelli del passato non riescono a funzionare. Il titolo del libro The Next Convergence, e quindi Michael Spence cerca di dare questa convergenza di vari modelli che possono portare a un ritorno della crescita. E poi Wiley ci raccomanda un brillante giovanissimo neuroscienziato, David Eagleman, che ha scritto un libro in cui cerca di così rivelare quella che lui chiama la vita segreta del cervello, e questo libro si intitola Incognito, Incognito. Poi ci parla di Siddhartha Mukherjee, che ha vinto il premio Pulitzer con questo libro The Emperor of All Maladies, che è, pensate, una biografia del cancro. E poi Neil Ferguson, ecco, devo dire, Neil Ferguson è uno degli autori di Wiley. Naturalmente la debolezza prevale, molti di quelli che vi ho citato sono autori che fanno parte del suo stable, del suo gruppo, e sarebbe difficile non citarne qualcuno, visto che in totale, pensate, rappresenta 750 autori. Tra questi, tanto per darvi una curiosità, rappresenta tutte le opere di Italo Calvino, quindi gli interessi della famiglia, degli eredi di Italo Calvino. Il libro di Niall Ferguson, storico inglese, è Civilization, The West and the Rest. Il West, noi, l'Occidente e il resto del mondo, un tema ovviamente centrale nel dibattito di questi tempi. Poi di grande interesse dovrebbe essere l'opera di Ala Aswani, uno scrittore egiziano che ha scritto un libro già sulle ultime vicende in Egitto, e Peter Godwin, simpaticissimo, e un giornalista dello Zimbabwe, scrive dei libri sullo Zimbabwe, hanno tutti avuto grande successo. Vorrei aggiungere un paio di altri libri che secondo me saranno degni di interesse. Intanto quello di Andrew Roberts sarà presentato ufficialmente in America lunedì, World War II, The Storm of War, la tempesta di guerra, Seconda Guerra Mondiale, una nuova storia, una nuova interpretazione della Seconda Guerra Mondiale. Ma il prodotto più caldo sul mercato è il libro atteso per il 2012, I Steve, The Book of Jobs. I Steve per iPad, per iPhone ovviamente, stiamo parlando di Steve Jobs. The Book of Jobs, il libro di Jobs, richiama ovviamente i libri biblici, scritto da Walter Isaacson, grandissimo autore, ex direttore di Time Magazine, il presidente dell'Aspen Institute. È la prima volta che Steve Jobs ha dato e autorizzato una sua biografia, si è aperto con Isaacson, e questo libro farà sicuramente il pieno a livello mondiale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La cantante rhythm and blues Kelly Rowland ha rivelato il titolo del suo prossimo album. Si chiamerà Here I Am. Ascoltiamo dunque il suo ultimo single, Kelly Rowland, Motivation. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.